Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16:33, Nova Lab 24, Luca Tremolada, siamo in compagnia con Guido Romeo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quindi torniamo a parlare di un tema a noi caro, l'LHC, l'acceleratore di particelle, la macchina più della fisica più potente mai costruita dall'uomo, dico giusto? Probabilmente la macchina più incredibile mai costruita dall'uomo. Ecco, esatto, parleremo di questo, riparte, si rimette in moto, ma adesso prima diamo le news, poi torniamo a parlare di un giallo che riguarda dall'LHC, le news. Rupert Murdoch mette le news a pagamento. La versione online del Times, così come quella del Sunday Times, a breve non sarà più gratuita. La News Corp di Rupert Murdoch ha annunciato stamane che, a partire da giugno, per leggere le notizie dei due giornali britannici su internet, gli utenti dovranno pagare. Dopo cinema, TV e videogiochi, il 3D potrebbe interessare, a suo modo, anche i libri. La notizia arriva dalla Corea del Sud. Un team di scienziati sudcoreani afferma infatti di aver sviluppato una tecnologia 3D che fa saltar fuori personaggi e luoghi dalle pagine di un libro tradizionale e annuncia di averla usata per animare due libri di favole. Le figure hanno una speciale cordicella che fa partire l'animazione in 3D. Per la visione occorrono gli appositi occhialini. Ancora in tema di 3D, Square Enix ha rivelato che la versione PC di Just Cause 2 conterrà anche una suite di avanzati miglioramenti grafici, supportati dalle GPU Nvidia, tra cui illuminazione Next Generation e fisica dell'acqua ottimizzata, oltre al pieno supporto per il 3D Vision. Il gioco è disponibile da ieri sul mercato per Xbox 360 e PS3. Infine, sempre in tema di videogame, è uscito in questi giorni Metro 2033. Basato sul romanzo dell'autore russo Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 è ambientato nella metropolitana distrutta di una Mosca post-apocalittica. È una storia intensa di sopravvivenza sotterranea, dove, come al solito, il destino dell'umanità è nelle tue mani. Il destino dell'umanità nelle tue mani. Ma torniamo invece a qualcosa che non ha nulla a che fare con il destino dell'umanità. Beh, insomma, infatti, ti ricordi quando si era parlato di buco nero? Tutte sciocchezze in parte, no? Ma adesso magari ne riparliamo. Tra l'altro il 30 di marzo avremo la collisione la prima collisione a 7 TeV. Ci spiegheranno insomma che cosa succede esattamente. Sì, noi siamo in collegamento con Ginevra, con due italiani che frequentano il CERN, Lucio Rossi e Fabiola Gianotti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso fermiamoci un attimo perché nella scheda di Guido Romeo ricapitoliamo un po' tutto quello che è successo fino ad oggi per poi cercare di andare a capire quello che succederà il 30 di marzo. LHC, l'acceleratore di particelle più potente mai costruito dall'uomo, è ripartito ufficialmente alcune settimane fa. Adesso l'obiettivo di questa macchina eccezionale, costata oltre 8 miliardi di euro e finita anche nei libri di Dan Brown, è acchiappare quella particella di Dio, il bosone di Higgs, che promette di ridisegnare la fisica. Ma la sua missione è anche far dimenticare le innumerevoli traversie, che fino ad ora ne hanno rallentato le scoperte. Dal difetto alle saldature che ne ha provocato l'arresto nel settembre del 2008, ai falsi allarmi sui buchi neri, all'arresto di uno scienziato sospettato di complicità con gruppi terroristici o alle cadute di tensione dovute a un gufo arrivato troppo vicino alle linee elettriche. In realtà, dopo un anno di riparazioni e test minuziosi, le prossime tappe del mega acceleratore, che corre a 100 metri di profondità sotto il confine franco-svizzero alle porte di Ginevra, sono accuratamente programmate. Entro la fine del mese dovrebbe stabilire il suo record di energia e continuare a lavorare fino alla fine del 2011 e riprendere al massimo della sua potenza nel 2013, catapultando le particelle che corrono nel suo anello a velocità vicinissime a quelle della luce. Quindi una storia travagliata quanto affascinante. Io vorrei capire con Fabiola Gianotti, che è il capo progetto dell'esperimento Atlas dell'LHC, innanzitutto che cosa succederà il 30 marzo? Dunque, il 30 marzo i due fasci di protoni dell'LHC verranno fatti scontrare a energie mai raggiunte, sono energie tre volte e mezzo più elevate che nell'acceleratore attuale più potente che il Tevatron a Fermilab negli Stati Uniti, e quindi cominceremo a esplorare una nuova regione, un nuovo regime di energia dove ci aspettiamo di trovare risposte a molte domande interessanti ancora ancora misteriose, e quindi speriamo presto di fare scoperte affascinanti. Ecco, presto che cosa vuol dire? Cioè, nel senso che posto che il 30, insomma, c'è lo switch on, cioè si schiaccia un bottone e parte la corsa delle particelle, a questo punto quando possiamo aspettarci di avere qualche risultato? C'è Guido Romeo che mi guarda malissimo, non so perché. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, stavo aspettando che lo dicessi. Che dicessi qualcosa di sbagliato. Allora. No, è che Gianotto ha detto una cosa molto importante. Ci ha detto andremo a un'energia che non è mai stata vista prima, insomma. E in realtà poi i fasci, da quello che ho letto, stanno già correndo. Insomma, il punto nuovo, il 30, è che finalmente si scontrano queste collisioni. Avremo, esatto, ma in realtà per essere corretti abbiamo già raggiunto energie, record di energia, perché già nella presa dati dell'anno scorso siamo andati a energie superiori a quelle del Tevatron, anche se di poco in realtà, ma questo sarà ancora più vero a partire dal 30 marzo, quando il salto di energia sarà più significativo. La domanda su quando possiamo aspettarci di avere dei risultati è chiaramente una domanda legittima. Risultati molto presto, perché chiaramente quello che ci aspetteremo di vedere innanzitutto dopo le primissime collisioni sono le particelle che già conosciamo, già scoperte, come il bosone W, il quark top, eccetera. Queste dovremo riscoprirle, fra virgolette, rimisurarle in un nuovo regime di energia, ma queste particelle che già conosciamo sono per noi anche molto importanti da riosservare, perché ci permettono di capire se i nostri strumenti, i nostri rivelatori funzionano bene. Una particella che è già stata misurata bene, se non ritroviamo le caratteristiche che sono già state misurate, vuol dire che c'è qualche problema col nostro rivelatore, quindi ci permette di, in qualche modo, queste osservazioni di poter finire il collaudo preciso dei nostri strumenti. Per quanto riguarda le scoperte, dipende un po' da quello che la natura ha in serbo per noi, perché se alcune delle nostre speculazioni, nostre attese si verificano, dovremmo già poter scoprire qualcosa di interessante già verso la fine dell'anno. Se invece la natura ha scelto fenomeni diversi a quelli che noi abbiamo previsto, potremmo avere qualche scoperta anche prima o forse dopo, quindi stiamo entrando in un territorio nuovo, e quindi è chiaro che anche un po' la sorpresa, che è un po' il sale della ricerca, è un ingrediente importantissimo. Ecco, io volevo chiedere invece a Lucio Rossi, che qualche settimana fa ha pubblicato il rapporto sul famoso incidente di fine 2008, e quindi ha spiegato, abbiamo potuto leggere che cosa era andato male, non sempre capire perché naturalmente non tutto è chiarissimo ai non addetti ai lavori, ma insomma era un difetto minore che ha avuto conseguenze pesantissime. La domanda per Lucio Rossi è che cosa va a succedere da un punto di vista tecnologico, perché Gianotti dice ci spingiamo a energie mai viste, è la prova del 9 un po' anche per voi che seguite la parte più tecnologica dell'acceleratore? Certo, ci spingiamo veramente a energie mai viste, quindi abbiamo spinto la tecnologia anche a punti estremi. Come è stato detto, i fasci stanno già circolando, ma fino ad ora non hanno mai fatto scontri a queste energie che avverranno il 30 marzo. Quindi noi siamo confidenti perché abbiamo provato tutti. Posso solo chiedere una cosa che adesso, certo, così suscito anche la reazione di Guido Romeo, cioè perché non ci sono ancora stati scontri? Perché prima di fare gli scontri occorre essere ben sicuro di tutte le proprietà dei fasci di particelle. Quindi in questo momento stiamo facendoli circolare, ma isolatamente, uno per uno, per conoscere tutte le proprietà, perché altrimenti se io comincio a mettere assieme troppo presto, se poi succede un problema non so a cosa ero dovuto, quindi prima, certo, bisogna conoscere bene le caratteristiche dei fasci e poi dopo, come punto finale, ovviamente si fa lo scopo per cui è stato fatto il collisionatore. Quindi diciamo che in questo momento li state facendo un po' circolare, li state studiando, li stiamo misurando, esattamente, bravissimo. prego, no, continuiamo sulla parte che poi è, io ho parlato di giallo in maniera impropria, che però è sicuramente il motivo che, torto a ragione, porta spesso l'acceleratore sui giornali, cioè i vari guasti, le varie piccole inefficienze. Cioè, ecco, il giallo, se si può dire, è che voi avete, da quello che ho letto, da quello che ho capito, voi avete riparato tutta la parte danneggiata, rispezionato una parte di queste famose saldature che permettono, certo, di questi famosi giunti che permettono il passaggio della corrente, il funzionamento, sì, di questi 27 chilometri di anello, quindi una cosa mostruosa, ma non li avete, come dire, smontati tutti, anche perché sarebbe un lavoro pazzesco. Il giallo è se avremo o non avremo un incidente di nuovo come quello del 2008, che per fortuna non ha avuto vittime, non ci sono state conseguenze, certo, se non quelle diciamo, un grande sconquasso. Certo, beh, il giallo, no, noi pensiamo, diciamo, uno dei motivi per cui ci limitiamo per ora a metà dell'energia potenziale del nostro acceleratore è proprio per prenderci dei margini di sicurezza, perché, come ha detto lei, non abbiamo potuto ancora esaminarle tutte, abbiamo fatto delle misure in alcuni casi meno precise e quindi abbiamo deciso di prenderci dei margini di sicurezza. Noi le consolideremo, cioè, diciamo così, faremo un'azione di irrobustimento di tutte queste saldature nel 2012, però intanto è necessario dare, diciamo, abbiamo riparato le peggiori, questo lo sappiamo, abbiamo già riparato le peggiori e abbiamo fatto una valutazione, diciamo, scientifica, sensata, basata sui dati che avevamo, di dove potevamo spingersi con la situazione che abbiamo adesso nell'anello. Vorrei anche sottolineare che una delle cose complicate adesso della preparazione è il fatto che per arrivare ad avere i fasci che circolano e quindi poi scontrarsi, c'è tutta una catena che deve funzionare, non solo le interconnessioni dei magneti, non solo l'LHC, ma tutta la catena di iniezione. Voi pensate, nell'LHC abbiamo 10.000 magneti superconduttori, 2.000 grandi, ma ne abbiamo altri 4.500 che prendono questi protoni da energia zero e man mano li preaccelerano per poi arrivare nell'LHC. Quindi se è sufficiente che un anello della catena, diciamo, sia debole, che tutta la catena si ferma. Quindi la complessità è persino anche le cose elettriche, sembrano banali, se però brucia un trasformatore occorre 12 ore per cambiarlo, certo tipo di trasformatore a alta tensione, e quindi riprendere. Quindi diciamo, oltre alla difficoltà tecnica che ho visto in LHC, ho imparato io stesso, ecco, è la complessità, ecco, di tutto un organismo che vive attorno alla produzione. Rossi, la devo interrompere perché adesso dobbiamo dare la linea al traffico e poi torniamo subito da lei. Nova Lab 24. Allora, la linea del traffico è caduta, ma tornerà alle 17.54, per cui, insomma, per chi è interessato a sapere cosa sta succedendo sulle strade italiane dovrà aspettare. Deve restare con noi. Fiori. Deve restare con noi, è costretto a restare con noi. Allora, però, torniamo al tema dell'acceleratore. Io volevo capire una cosa, cioè abbiamo capito che cosa? Abbiamo capito quali sono le complessità delle riparazioni. Abbiamo capito che questa macchina nella scheda di Guido Romeo è costata ben 8 miliardi di euro. Quello che è poco chiaro, che quantomeno non so io, ma non sa neanche Guido Romeo, è quanto costa il mantenimento di questa macchina. Non so chi dei due, forse Rossi, mi può rispondere. Beh, possiamo dire così, il mantenimento di questa macchina, se uno considera tutto, veramente tutto, può essere calcolato, secondo me, perché è difficile stimare, però della macchina con anche il complesso di preacceleratori che ci sta dietro, non meno di circa 200-250 milioni di franchi svizzeri, scusate, sono abitati franchi svizzeri, diciamo 150 milioni di euro. All'anno? All'anno, sì, sì. Però. Però prezzi all'americani, inclusi i salari, inclusa la struttura, perché, come è giusto, uno deve calcolare tutto quello che diciamo ci vuole per mantenere in vita il servo. Praticamente il SER lavora su questo progetto, tranne magari altri progetti piccoli, diciamo, questo è il grande progetto del SER, quindi il calcolo giusto è prendere il budget del SER, prendere la parte relativa all'operazione e questo è il costo per mantenere l'LHC, questi sono i costi totali di un grande complesso. Immaginate che questo è un complesso di circa 40 km di acceleratore, 27 di LHC e 13 km, 12 km tutti gli altri, diciamo, acceleratori. Quindi... Ecco, visto che parliamo di fondi, di soldi, come dice Tremolada sempre, i soldoni. Mai detto soldone, comunque lo dico, ma non è stato mai detto. Abbiamo gli MP3 per provarlo, ma comunque il punto è questo, e lo chiedo a tutti e due. Stiamo uscendo da una grandissima crisi economica. Fare questo tipo di ricerche, questo tipo di esperimenti in questo contesto economico, che cosa significa? Gli inglesi so che hanno visto scendere la sterlina e quindi, come dire, avrebbero voglia di contribuire in maniera un po' diversa. Che cosa succede su questo fronte? Ma, diciamo che per il momento posso magari cominciare a dare qualche spunto di riflessione, io poi magari Lucio può completare. Per il momento il budget del CERN rimane intoccato e le cose continuano come prima. Bisogna un po' evitare ogni volta che c'è una crisi economica di tagliare la ricerca di base come prima soluzione, perché è una soluzione apparentemente facile, perché non ha un impatto diretto, immediato sulla vita dell'individuo, ma ha delle conseguenze aberranti e terribili sul termine, sul più lungo termine, quindi poi per la situazione economica di un paese, se non di una regione, la grande regione, per nel futuro. Tagliare la ricerca di base significa tagliare le gambe all'industria, tagliare le gambe alla tecnologia, al progresso. E quindi ci associamo sia io che Guido Romeo. Anche perché l'Italia mi risulta è uno dei principali contributori, insomma voi siete al CERN, ma il CERN è anche, diciamo, per una buona fetta anche italiano. Il 10% di contributi vengono dall'Italia, tra l'altro poi l'Italia riceve però chiaramente un guadagno molto superiore a quello che viene in qualche modo investito in commesse industriali, in un usufrutto anche del laboratorio, delle strutture da parte di fisici italiani, che sono il secondo gruppo nazionale fra gli utilizzatori del CERN. Sì, ecco, questo lo sottolineiamo perché forse è un aspetto già meno noto, nel senso che esatto. Di fatto poi il CERN, proprio per il fatto che l'Italia contribuisce per il 10%, è in un certo senso al servizio dei laboratori e dei fisici italiani, per cui insomma da lì possono anche arrivare delle innovazioni, delle scoperte che riguardano la fisica, che magari hanno anche delle ricadute alte rispetto alla fisica teorica. Beh, ecco. Il web l'hanno inventato al CERN, tanto per dirne una. Ci sono due aspetti da considerare. Una domanda è: qual è l'impatto delle scoperte che noi faremo all'LHC? D'accordo? Questo è difficile da dire oggi, perché se scopriamo il bosone di Higgs, il famoso bosone di Higgs, l'impatto immediato sulla realtà non può essere valutato in modo molto facile, però innanzitutto ogni volta che si fa un passo avanti nella conoscenza si fa un passo avanti nel progresso, prima o poi si hanno i vantaggi. Quando Thomson scoprì l'elettrone alla fine del XIX secolo nessuno poteva capire l'importanza di questa scoperta, e oggi senza elettrone non ci sarebbe la vita che abbiamo in qualche modo. Però al di là di quelli che sono gli impatti delle scoperte, c'è già un impatto grossissimo sull'industria, sulla società, sulla salute, sul campo medico, che viene dal fatto che per costruire questi acceleratori, questi rivelatori di altissima tecnologia, al di là di quelle che sono le potenzialità attuali, addirittura della nostra industria e della tecnologia di base, abbiamo dovuto sviluppare appunto tecnologie nuove che sono già applicate in vari settori, che vanno già a vantaggio della società e della vita di ogni giorno. Ecco, Giannotti, io volevo chiedere una cosa e volevo chiederla anche a Rossi, ma abbiamo pochissimi minuti. C'è una scoperta che sognate dall'inizio di questo esperimento, nel senso di c'è anche un terrore quando si è di fronte, questo è il più grande esperimento del contemporaneo sicuramente, c'è qualche cosa, io mi aspetto che accadrà questa determinata cosa, cioè potete sbilanciarvi Guido Romeo mi dice che non lo farete mai. No, bella domanda, vediamo se si sbilanciano. Io mi sbilancio, non sono esperto, quindi poi Fabiola mi può correggere. Però io ci sono due cose che sono state, diciamo, sono arrivate dopo che l'LHC è stato lanciato, che è l'energia oscura e la materia oscura. Io spero, il mio sogno è che almeno uno di questi due lati oscuri del mondo, no? Che sono così importanti, sono il 96% del contenuto di materia e energia del mondo, almeno uno di questi qua LHC fa luce, cioè veramente di far luce su almeno uno di questi due aspetti, su tempi relativamente rapidi. Questo è la mia speranza. Mi sento più fortunato. Ancora che l'odore di X, posso dirlo. No, grazie, mi sento fortunato perché non pensavo di ottenere una risposta. Gianotti, a questo punto la sfidata, Rossi, deve anche lei dire qualcosa. Mi ha tolto la parola di bocca perché anche per me la... Non dico che mi aspetto di, ma quello che spererei di scoprire, posso dire, quello che spererei di scoprire è la particella che spiega la materia oscura, quindi il 25% della composizione dell'universo. L'energia oscura sarà un po' più difficile, ma la materia oscura penso veramente che sia alla nostra portata, quindi di poter scoprire in un laboratorio nella campagna fra Ginevra e la Francia la particella che spiega il 25% dell'universo, beh, sarebbe senz'altro un grande trionfo per la scienza. Vi facciamo un grosso in bocca al lupo a entrambi e vi ringraziamo. Noi torniamo non lunedì, ma torniamo martedì alle 16:30. Lunedì ci sarà lo speciale lezioni. Arrivederci. Arrivederci. Nova Lab 24.